La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. È l'inizio di un'associazione che aveva a cuore di approfondire le tematiche della cultura alimentare e che in quel momento sentiva l'esigenza di lavorare sul fronte dell'educazione e quindi anche della informazione per quello che riguarda tutte le conoscenze del cibo, delle bevande. Devo dire che in quel periodo eravamo anche molto motivati sul fronte della educazione enologica. Carlo Petrini, classe 1949, nasce a Bra. Gli amici lo chiamano il Carlin. A 18 anni, Carlo va a studiare sociologia a Trento. La città è il luogo in cui fermentano idee di ragazzi che saranno centrali per il nostro paese. Siamo sul finire degli anni 60. Carlo Petrini è attivo, si candida e viene eletto come consigliere comunale per la lista del Partito di Unità Proletaria. Ma il sogno del Carlin è un altro. L'idea si forma qualche anno dopo, quando, cominciando a lavorare come giornalista enogastronomico, partecipa alla nascita del Gambero Rosso, che in quegli anni veniva dato in allegato al quotidiano Il Manifesto. Cali già lampe in terra e l'altro in mare. Dita mie, ospeggio denti anin. Questa è la prima volta di un uomo che non ha mai smesso di camminare lento e ricercare sapori che riportino a casa, come scaramanzia, per non perdere la strada per la felicità. In fondo è quanto ci racconta anche Fabrizio De André in questa canzone A Cimma, in cui si descrive poeticamente la preparazione di un piatto tipico ligure, la cima appunto. E la ricetta non è altro che il veicolo per ricordare, rivedere madri e nonne al lavoro in cucina, risentire odori e provare emozioni. Lesa cugia se serei tarascuia carne tenia no fate negra no tornate. Prima di Slow Food, Petrini fonda l'Arcigola e intanto porta avanti progetti di incontro come il Salone del Gusto, che oggi è un importante momento per la città di Torino e per l'Italia tutta. Petrini è un uomo intenso che ama con una forza inaudita ciò che fa e che non si arrende neppure davanti all'evidenza dei fatti. Quando arrivano i fast food anche in Italia, ad esempio, lui è in prima fila a sfidare dei giganti e ci riesce. L'America descritta nel film Super Size Me è ciò che Petrini decide di contrastare. Questi bambini americani cantano una canzoncina sul cibo, i cui protagonisti sono marchi di fast food. Petrini non vuole che questo accada in Italia. Con il tempo poi le tematiche della sostenibilità, della difesa della biodiversità sono diventate molto molto rilevanti. Forse proprio perché il nostro movimento ha intercettato delle istanze giuste, ha trovato migliaia di persone che con un impegno volontario si stanno impegnando in ogni angolo del mondo e sono queste persone che fanno la differenza. Do molto più valore alla mobilitazione di persone che magari non sono conosciute ma credono nelle idee che non al protagonismo di una persona. Prendendo proprio questo come spunto, la domanda successiva potrebbe essere: lei crede davvero che si possa invertire la tendenza attuale e arrivare a proporre il bio, quindi il cibo biologico, come consumo quotidiano? Cioè, in questo caso servirebbe anche un cambiamento dei consumi, no? Siamo in grado di farlo, secondo lei? Io penso di sì, perché la situazione per quello che riguarda la fertilità dei suoli è drammatica. Se noi continuiamo a mettere della chimica nel sotterreno, alla fine l'humus, proprio la ricchezza dei suoli, si impoverisce in maniera tale che ci troveremo davanti a un disastro annunciato, in parte lo è già. Per cui l'esigenza di tornare a dare una fertilità ai suoli significa anche tornare a una produzione sostenibile, dove l'humus e la ricchezza della terra ritorna a essere forte e fertile. Ecco, da questo punto di vista vuol dire che anche i consumatori avvertiranno sempre di più queste esigenze e saranno disposti anche a spendere qualcosa in più. Guai se il biologico diventasse un prodotto di elite o di nicchia, guai, sarebbe una grande iattura. Invece io penso che è nostro dovere evitare lo spreco enorme di cibo che c'è, e riducendo lo spreco avere l'opportunità di avere più qualità e pagare il giusto ai contadini. Ecco, e poi a me sembra che a volte manchi nel consumo del cibo una certa eleganza, un gustarsi le cose, no? Allora ho recuperato una frase scritta da Russell, Bernard Russell, che diceva: gustavo le pesche, le albicocche molto di più di quanto le gustassi prima, quando seppi che si cominciò a coltivarle in Cina e che i cinesi le introdussero in India, da dove si diffusero in Persia, aggiungendo poi all'impero romano. Ecco, insomma, tutto questo lungo passaggio storico, dice Russell, gli ha reso più saporito il gusto delle pesche e delle albicocche. E il senso, secondo me, è in fondo anche questo, no? Cioè, e forse anche per voi, cioè la bellezza, l'eleganza è anche ciò che mangiamo, e la storia di un prodotto ha a che fare con il suo gusto. Assolutamente. Del resto, se lei pensa che l'etimo della parola sapore è molto vicino a sapere, anzi, è la stessa radice: sapore e sapere. E non c'è dubbio che se io ho più conoscenza riesco ad assaporare meglio. Questo è il concetto di Russell, molto molto bello. Mangiare senza sapere che cosa c'è dietro, da dove viene quel prodotto, quale chi l'ha prodotto, con quale sforzo è stato fatto, magari che contesto è stato trasformato, eccetera, non dà valore al cibo, diventa una specie di carburante per una macchina. Noi non siamo una macchina, noi siamo qualcosa di più complesso, e il sapere è molto importante per dare sapore alla vita. La prima volta. Cosa c'è di più bello, godurioso, eccitante di tagliare col coltello un panino gigante, di cercare gli ingredienti negli anfratti più strani, orgogliosi e contenti di leccarsi le mani? Quando nell'89 Carlo Petrini fonda Slow Food, sa che la sua vita è cambiata e che la sua scelta coraggiosa di difendere un vivere lento, un gustarsi le cose, un difendere i sapori del territorio sarà condivisa da molti, dai giovani soprattutto. Petrini, il Carlin, diventa in poco tempo icona di una controrivoluzione lenta e silenziosa, fino a sbarcare negli Stati Uniti. Diamo più valore all'olio d'oliva che non all'olio del motore della macchina. Well, you all speak Italian. Let's give more value to olive oil than car oil. Sapete cosa vuol dire raccogliere le olive? Do you know what harvesting olives means, to pick olives? Cosa vuol dirle frangerle? Cosa vuol dirle produrre l'olio d'oliva buono? To crush them, to press Il lavoro them. Che c'è! all the work that goes into good olive oil. Non può aver lo stesso prezzo dell'olio della macchina. It absolutely should not have the same price as motor oil. E tutti che discutono che l'olio d'oliva è caro e l'olio della macchina no, perché la macchina è sacra. And everybody is saying, oh my God, how expensive olive oil is. Well, it's not like your car is sacred. La macchina è un totem. It's just, it just becomes a totem, a status symbol. La macchina la devi cuidare meglio che tua moglie. You know, you've got to clean your car better than your wife. E non devi guardare quello che costa. Non devi guardare l'olio che ci metti. Non devi guardare niente. Devi consumare. You know, you don't even bother looking at the price of it. You just have to consume. E l'olio d'oliva invece è caro. But instead you complain about the price of olive oil. È caro il caffè. Coffee. È caro il caffè. How expensive it is. Ma quando andate a prendere un caffè al mattino? When you go to have your one morning coffee. Non so quanto costa qui, in Italia costa un euro. It costs about $1.50 with a euro now, 1 euro. Un euro. $1.36. Ai contadini che producono caffè va 5 centesimi. And the farmer who produced that coffee is making 5 cents off that cup. 95 centesimi a tutti gli altri. 95 cents to everybody else, all the middlemen. Ai contadini 5 centesimi. 5 cents to the farmer. Questa è la nostra vergogna dell'Occidente. This is the shame of the West. Perché io ho visto i contadini del sud del mondo. Because I saw coffee farmers. Ho visto in the i contadini del Guatemala a 1800 metri raccogliere caffè. I saw Guatemalan farmers at 1800 meters picking those beans. Senza scuole, senza ospedali, senza strade. Without schools, without hospitals, without roads. 5%. 5%. 95% a tutto il sistema. And 95% goes to this system. È ora di portare il valore dove viene prodotto. It's time to bring the actual value where it got produced to the country of origin. Ritorniamo a dare valore ai contadini. Let's go back to giving the real value to the farmer. La cosa più sorprendente della storia di Slow Food è anche il fatto che lei ne parlava anche all'inizio di questa intervista, è che esista anche una costola americana del movimento, no? Ci sono oltre 40.000 associati. Che cosa si aspettano gli americani da Slow Food e chi sono questi associati? Beh, il nostro movimento negli Stati Uniti è stato all'avanguardia nella costruzione dei mercati contadini, quelli che loro chiamano i farmer market. È stato molto, molto impegnato nella costruzione degli orti scolastici e adesso ha un forte radicamento anche nelle università. Direi che in America si avverte la drammaticità di un sistema alimentare che ha generato una pandemia che ha costi altissimi e che è l'obesità, in parte anche il diabete, determinata da cattiva alimentazione. Per cui Slow Food viene intercettato come anche un soggetto che propone uno stile di vita più salutistico, ecco. Devo dire che anche in questo caso sono gli americani che hanno sentito forte questa idea e il fatto che oggi l'associazione americana sia così forte sta a significare che la società civile di quel paese ha proprio bisogno di cambiare un sistema alimentare i cui costi sono altissimi. Lei anche appunto per me è stato insomma un onore, no, intervistarla. In qualche modo rappresenta anche per le giovani generazioni, per tantissime persone, un po' un collante, diventa la filosofia di un movimento che si oppone da tempo e che recupera il tempo stesso, recupera il gusto, recupera la qualità della vita. Lei cosa si aspetta dalle persone? Ma Io ho molta fiducia nei giovani, guardi, e avverto una domanda forte di democrazia partecipativa, di voglia di essere protagonisti e non solo di subire, ecco, le dinamiche che l'economia e la politica quotidianamente ci sottopongono. Per cui in questa situazione di crisi mondiale bisogna anche avere fiducia in coloro che sono in parte il nostro futuro. Vede, io appartengo a una generazione che ormai deve passare testimone e non c'è ombra di dubbio che queste giovani generazioni da un lato avvertono la difficoltà nel diventare protagonisti, ma dall'altro hanno anche come dire, le giuste ambizioni per poter diventare artefici del proprio futuro. Io direi che il nostro dovere in questa fase è semplicemente fare squadra e fare in modo che ci siano più opportunità possibili per cambiare uno stato di cose che, bisogna dire, dal punto di vista ambientale è drammatico. Slow food è dunque un'idea che si trasforma in una vera e propria rivoluzione fino a raggiungere gli Stati Uniti. Petrini andrà avanti e indietro e scoprirà un mondo ancora intatto, comunità di agricoltori e gente, tanta, pronta a cambiare stile di vita e vivere slow. Con Slow Food, Carlo Petrini e le migliaia di persone che vi aderiranno salveranno centinaia di prodotti destinati altrimenti a scomparire. Voi quanti prodotti tipici siete riusciti a difendere in questi anni? Beh, in Italia oltre 250. Sto parlando di prodotti molti in via di estinzione. Siamo molto orgogliosi di questa battaglia, anche perché è un patrimonio straordinario che gli altri paesi ci invidiano e che rischiava di scomparire proprio perché molti di questi prodotti non erano più competitivi dal punto di vista commerciale. Ma delle volte difendere una razza debole è un modo per investire sul futuro. Difendere solo le specie forti e alla fine ci troviamo più poveri. Questa è la prima volta di un uomo che decide di mettere bene i piedi sulla terra e difendere un ritmo lento. Si innamora Carlo Petrini di questa idea di mondo da salvare. E in fondo, come viene detto bene nel film L'albero della vita, il tempo è collegato all'amore. Se non ami, la tua vita passerà in un lampo. La prima volta termina qui. Scriveteci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. La prossima settimana avremo come ospite Paolo Fresu. Ci ritroviamo sempre alle 13, sempre di domenica. Un saluto da Cristina Carpinelli.